Con questa bellissima celebrazione, fratelli e sorelle carissimi, comincia il Santo Triduo Pasquale. Questa sera è la festa dell'istituzione dell'Eucaristia e del Sacerdozio, perché questa celebrazione ricorda la celebrazione dell'ultima cena in cui Gesù ha istituito questi due sacramenti mirabili che sono tra l'altro relazionati l'uno con l'altro. L'Eucaristia c'è perché ci sono anche oggi degli uomini che per volere di Gesù Cristo hanno il potere, ripetendo le sue stesse parole, di consacrare, quindi di portare in mezzo agli uomini la presenza vera, reale e sostanziale di Gesù Eucaristia. Nel Vangelo di San Giovanni non c'è il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia che c'è invece nei sinottici, ma c'è al posto del racconto questo episodio che abbiamo letto, la lavanda dei piedi, che storicamente ha preceduto l'istituzione dell'Eucaristia. Perché San Giovanni ha fatto questa scelta? Per due motivi. Primo, perché sapete tutti quanti che San Giovanni è l'ultimo Vangelo, quindi ha scritto tutto quello che nei Vangeli precedenti non c'era scritto, in quanto testimone molto vivo, sapete che era l'apostolo prediletto, di tutto quello che Gesù ha fatto. Questo particolare non si trova nei Vangeli sinottici, nessuno l'aveva raccontato e quindi lui lo ha raccontato. Ma in secondo, anche per darci un grande messaggio, perché il gesto della lavanda dei piedi, che sapete quando si fa, è un gesto facoltativo. Adesso quest'anno è stata lasciata una certa libertà di valutare l'opportunità di farlo o meno. Io ho valutato che non è ancora il caso di farlo. Quando c'è questo gesto però capta un po' troppo l'attenzione, nel senso che ci si ferma su questa rappresentazione che è certamente suggestiva, ma noi siamo, capite, figli del nostro tempo, quindi siamo sempre attratti da queste cose. Poi c'è il pericolo che il significato più profondo di questo gesto passi in secondo piano, perché questo gesto è strettamente collegato con l'Eucaristia. Perché, come vi dirò in queste brevi riflessioni, l'aver istituito l'Eucaristia da parte del Signore significa davvero essersi messo ai nostri piedi. Solo che dobbiamo fare attenzione, su questo rifletteremo. Il fatto che Gesù si sia messo ai nostri piedi, attenzione alla sottigliezza, non ci autorizza a mettercelo sotto i piedi. Non so se capite già il significato. Lui si umilia in continuazione, adesso vedremo come, nell'Eucaristia, ma noi non dobbiamo dargli per nessun motivo più umiliazioni di quante già nella sua infinita condiscendenza e bontà se ne va a cercare per amore nostro. In che senso si umilia? Vogliamo fare un pochino di esempi. L'Eucaristia è tre cose, penso che le sappiamo tutte quante. L'Eucaristia significa, primo, la messa, che è la rinnovazione sacramentale ma reale del sacrificio della croce. Gesù di messa ne ha celebrata una sola all'ultima cena, ha anticipato quello che avrebbe fatto il giorno dopo. Sapete che domani non si celebra la messa, domani non ci sono messe, né domani né dopodomani. Perché? Domani c'è una celebrazione che è la commemorazione della passione del Signore, con cui si fa la comunione con le ostie consacrate oggi. Si fa la comunione ma non c'è messa. Sapete perché? Perché domani si ricorda l'unica messa, perché la messa, in senso stretto, è il sacrificio di Gesù crocifisso e morto per noi. La messa lo rende attuale, Gesù l'ha anticipato nell'ultima cena, noi sacerdoti la continuiamo a rendere presente in ogni tempo e in ogni luogo della storia, semplicemente per il potere ricevuto da Gesù, i primi sono stati gli apostoli con le parole fate questo in memoria di me nell'ultima cena, di fare quello che ha fatto lui. Domanda: si umilia Gesù durante la Santa Messa? Non ne parliamo. Può succedere che si umilia perché chi celebra la Messa non stia proprio messo benissimo. A tante sante, a tante mistiche Gesù ha detto che scendere in certe mani, purtroppo, di ministri indegni, ce ne sono sempre stati nel corso della storia, e basta leggere il dialogo della Divina Provvidenza di Santa Caterina da Siena se uno vuole farsi vedere un po' di mal di stomaco. Immaginate per Gesù scendere nelle mani di un ministro indegno, che stia in peccato mortale, che stia con la testa per aria, che stia celebrando la messa in maniera scellerata, come stesse facendo un mestiere, un lavoro, con la prescia, o senza un minimo di raccoglimento e devozione. Ma come sta Gesù quando scende in quelle mani? Punto intero. Sapete cosa diceva Padre Pio quando vedeva qualche sacerdote indegno? Li guardava e gli faceva: che macellai, un'espressione terribile, macellai. Quindi stanno continuando a macellare Gesù in maniera differente, come se non bastasse quanto l'hanno già macellato il giorno della passione e della morte di croce. Questo è un esempio. Vogliamo vedere i fedeli, chi sta messa con la testa per aria, quelli che ci vengono, chi arriva tardi, chi manco durante la consacrazione, figlioli miei cari, ve lo dico per il vostro bene, a meno che uno non ci abbia dei problemi seri alle ginocchia, il che è dispensabile. Cioè, sta in ginocchio, sta scendendo Gesù Cristo, sta scendendo Dio fatto uomo, figli miei, capite? Io ve lo dico per il vostro bene. Cioè, immaginate che umiliazione. Chi scende sull'altare è colui dinanzi al quale tremano gli angeli, capite? Dovremmo stare tutti quanti prostrati con la faccia a terra, capite? Il sacerdote genuflette dopo che ha consacrato, ma io se potessi fare la consacrazione stando in ginocchio, non lo posso fare, ma io se potessi farlo lo farei, mi genufletto dopo, ma così bisogna stare dinanzi al Signore, no? Avete visto qui le scenette anche la domenica, quando vengono i turisti che mi fanno uscire fuori dai gangheri durante la celebrazione con tanto di cartelli, non solo che non vanno a messa come dovrebbero, ma disturbano anche il celebrato e quei poracci che ci stanno, non si rendono conto molte volte, però questa è una cosa grave questa qui. Voi ci pensate a quanta gente non mette mai piede in chiesa? Con il nostro Signore Gesù Cristo che è morto in croce, che si è andato a inventare questa cosa, mica l'ha fatta per lui questa cosa, l'ha fatta per noi. Ma capite che umiliazione continua? Una persona che non va messa la domenica, sapete cosa sta dicendo? Questo è un peccato grave, dice il catechismo. Sta dicendo: chi sei? Tu sei venuto e sei morto in croce per me? A me che me ne importa? Ti sei inventato la messa per mettermi in contatto con questa cosa? Ma a me che me ne importa? Io c'ho altro a cui pensare. Non è un'umiliazione. Non sono umiliazioni queste qui. Passiamo alla Santa Comunione. Quanta gente che va a farsi la comunione oggi senza essersi confessato, 10-15 anni che non si confessa, o in situazioni in cui tutto dovrebbe farsi meno che farsi la comunione. Questa è una cosa frequentissima. Sapete quante volte mia nonna mi raccontava, mia nonna era nata nel 1902, o 2007 tra mia nonna e mia nonna, quando negli anni 30 frequenza la messa domenicale stavamo intorno al 90% in Italia, eh? Sapete quanta gente faceva la comunione? Quasi nessuno. Quasi nessuno. Perché allora lo sapevano bene. Che non mi posso fare la comunione se non mi sono confessato. Avete visto che adesso in tante chiese dove ci sono tante persone stanno i ministri straordinari, quelli laici che aiutano i preti a dare la comunione. Scusate, adesso va messa il 10% della gente. E ci vogliono i ministri. Quando andava al 90% della gente, se faceva la comunione in ginocchio, sulle balaustre, quindi quanto tempo ci vuole che ci mettevano a dare la comunione? Qualcuno forse più anziano se lo ricorda. Si sono mai visti i ministri straordinari? No, perché non basta, perché non c'erano, non servivano, perché c'era una sensibilità. Cioè, perché Gesù lava i piedi agli apostoli? Che cosa gli dice? Gli ha fatto il bagno, c'è tutto il mondo, ma deve lavarsi i piedi, cioè prima di accostarsi all'Eucaristia, sta attento che tu devi essere purificato. Non andare al santo banchetto a cuor leggero, e questo vale anche per chi diventa prete, perché li stava anche ordinando sacerdoti. Sapete che diceva San Tommaso d'Aquino? Un prete non dovrebbe farsi ordinare se non sia già puro quasi come un angelo, perché deve essere, pensate un po', questo lo dico contro me stesso, però è così. Adesso, come viene trattata l'Eucaristia? Voi sapete quante storie mi hanno raccontato anche recentemente, ostie ritrovate per terra dentro le chiese, frammenti più o meno grossi, o ci mancava solo la pandemia per diffondere ulteriormente dei modi di accostarsi alla comunione. Pensate, io per una vita ho cercato di educare i fedeli al contrario, in che condizioni mi sono trovato. Cioè, se casca un frammento di Eucaristia per terra, è chiaro che nessuno lo fa apposta, ma che succederà dopo secondo voi? Succede che qualcuno lo pesta, o no? Quindi vedete, Gesù si è messo ai nostri piedi, ma se succede una cosa di questo genere, che succede? Che ce lo mettiamo sotto i piedi, ma proprio ce lo mettiamo proprio sotto i piedi realmente. Capite? Io ho sempre chiesto al nostro Signore, dico, ma che hai fatto questa cosa? Ma voi pensate a quante... Cioè, capite che significa se qualcuno pesta un'ostia consacrata? Io personalmente, vi dico la sincerità, se posso fare una cosa, io non, ma mai farei una cosa che possa mettere a repentaglio una cosa di questo. Ma mi farei ammazzare 500.000 volte, capite? Se uno ci crede veramente, come fa? Punto interrogativo. Vogliamo parlare poi del terzo aspetto dell'Eucaristia, la presenza di Gesù nei tabernacoli. Gesù nel tabernacolo, anche qui è presente, eh? Quante persone vanno a visitare Gesù nei tabernacoli? Entrano in chiesa, specialmente quando poi si tratta di chiese come queste, cioè qui dentro c'entra un sacco di gente, ma quanta tra la gente che c'entra entra a pregare? Io ve l'ho detto tante volte, ci entro spesso durante la chiesa, durante il giorno, perché cerco di fare qualche visita, qualche ora canonica del breviario, cerco di farla in chiesa. Raramente trovo qualcuno a pregare, qualcuno lo trovo, e qualcuno di quelli che trovo sta anche qui tra i presenti, ma è raro. Spesso e volentieri, come l'altro giorno, ti trovo che apro la porta della chiesa, non avete idea di quello che ho trovato. Ho fatto uno strillo io, che mi hanno sentito fino a Piazza del Popolo. Perché entro, dico, c'è una paraonda che finiva mai, dico, scusate, non mi hanno sentito, ho dovuto fare uno strillo a dire, oh, qua stiamo in chiesa. Ma lì ci sta Gesù Cristo, capite? Non è un problema del parroco. Ah, il parroco è esaurito perché non ci fa le visite guidate in chiesa. Lì ci sta Gesù Cristo, a me non me ne importa niente, a me non è un oltraggio fatto a me, è un oltraggio fatto a Lui. Lì ci sta Gesù Cristo, questa non è casa tua, non è il salotto, questa è la casa di Dio. In chiesa si entra per parlare con Dio o di Dio. Io adesso sto parlando ad alta voce perché sto facendo l'omelia. Voi parlate ad alta voce quando fate il rosario, se no non si deve fare. C'è la presenza, cioè, voi pensate, ininterrottamente, giorno e notte, Gesù Cristo sta lì dentro senza che nessuno se lo fila. Non è un'umiliazione questa qui. Proviamo a pensarci un po', cioè questa sera proviamo a chiedere al Signore che ci porti un pochino nel suo cuore. Poi Gesù l'ha detto queste cose, eh? Perché quando apparve a Santa Margherita Maria la Coque, parlando del Sacro Cuore, che cosa ha detto? Ripara, perché a me, io sono saturo, riempito in continuazione di oltraggi, sacrileggi, indifferenze continue e soprattutto da chi mi dovrebbe amare più degli altri, cioè i battezzati e ancora di più i miei ministri, che anziché ripagarmi, cioè se mi ricambiassero con un pochino d'amore, io risoffrirei pure 100.000 passioni, ma vengo ricambiato in questo modo. Pensiamo anche alla realtà di questa nostra comunità. Io ho il cuore sempre piccolo così. È chiaro che io non voglio prendere in giro di petto la gente a portarla a calci in chiesa, perché non avrebbe nessun senso. Ma non è bello che in una comunità, cioè qui la frequenza alla messa domenicale, stiamo intorno, io ogni tanto faccio qualche conto, perché so esattamente gli abitanti che ci stanno. Il vescovo ci ha mandato gli elenchi con tutti quanti gli abitanti effettivi delle parrocchie. Se qua ci sono adesso 760 persone e io tra il sabato sera e la domenica mattina ne conto presenti 35-40, ditemi voi, la media di presenza alla messa domenicale sta intorno al 5-6%. È una cifra abbastanza bassa. Gli altri dove stanno? Qui non si tratta di Don Leonardo, di Don Giuseppe o di Don Federico. Quando c'è la messa c'è Gesù Cristo. Se la celebra Don Giuseppe, Don Leonardo, Don Federico, Don Alessandro, è la stessa cosa. Capite? Ma come starà il cuore di Gesù? Che cosa pensa? Ecco, quindi oggi è la giornata in cui pensare a tutte quante queste cose, e chi ha un pochino di amore, ecco, ricambi Gesù con altrettanto amore anche per chi purtroppo non ci crede, non lo adora e non lo ama. Siamo lodati Gesù e Maria.